1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, eccoci qua, signore, eccoci qui, alle 7 e 17 minuti, siamo pronti con la lettura dei giornali e questa è la rassegna stampa di 24 mattino, ricordatevi che domani è l'ultimo giorno, poi andrò in ferie, non lamentatevi che c'è di meglio sicuramente. E allora, che dire, siamo pronti a lanciarci? Ebbene, facciamo. Giovedì 28 luglio, i titoli intanto, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata al Monte Paschi, e sono giorni ovviamente importanti domani, gli stress test, la BCE alza il velo su Monte Paschi, ecco il piano per Atlante 2, questo è il titolo di prima pagina. Poi ovviamente quello che è successo in Francia è ancora in primo piano per il Corriere della Sera, la testimonianza dell'attentato di Rouen, ci hanno divisi, poi le coltellate. Per il Messaggero, killer schedati, l'ira della Francia. E poi il Papa, che ha parlato da Cracovia, la Repubblica. Il Papa è guerra ma non di religione. Le chiese di Francia dicono proteggeteci. Il Giorno, Francesco assolve l'Islam. Per la Stampa, il Papa piange le vittime, il mondo è in guerra, la religione non c'entra. Anche per il Manifesto, il titolo con il Papa in primo piano, non c'è religione, mentre Avvenire, il Papa è una guerra ma non di religione. Poi per cambiare tematiche, anzi no, il giornale rimane su questo tema, allertato l'esercito, le forze speciali nelle città italiane e la minaccia jihadista. Invece l'Unità punta su Hillary Clinton, Miss America, questo è il titolo. Il Fatto Quotidiano, il governo non c'è più, attività paralizzata, la linea è, se ne riparla dopo il voto d'autunno. Lascio da parte il titolo di prima pagina di Libero perché parla della RAI e lo faremo tra poco, approfondirò tra poco. Prima voglio partire da questa notizia di cronaca che di tanto in tanto, raramente, ma ci sono stati dei casi anche in passato, riesplode sui giornali e tutti a chiederci come sia possibile, tutti i dottori spiegano che incredibilmente è possibile. Di cosa sto parlando? Forse l'avete capito, di questa mamma che ha dimenticato la propria bimba di 17 mesi, Gaia, in auto e purtroppo questa bimba a Livorno è morta per il caldo, rimasta lì 4 ore. Perché dico i medici dicono che sia possibile? Perché ci sono stati dei casi, abbiamo avuto ospite in passato anche un genitore il cui figlio è morto, l'ha lasciato in macchina, e spiegano i medici che esiste questo, come dire, blackout del cervello, ovviamente è molto raro fortunatamente, che porta a dimenticare i bimbi in macchina, magari pensando di averli accompagnati dove di solito li si accompagna, in genere a scuola, e invece no. Sono stata io a ucciderla, bimba dimenticata in auto, la disperazione della madre. Tutti i giornali dedicano ampie pagine a questa vicenda di cronaca di Livorno. L'ho dimenticata in auto, l'ho uccisa, sono la responsabile della morte di mia figlia. In una stanzetta al reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Meyer c'è una mamma che da ore ripete le stesse parole come un'improbabile nenia. È questa mamma che tutti i giorni si svegliava alle 3:30 del mattino per aprire la pescheria dove lavora col marito. Poi alle 7 in punto accompagnava le figlie di 6 anni e 1 anno e mezzo al campo estivo e all'asilo nido, come un orologio svizzero. Martedì mattina quel meccanismo si è inceppato. Michela Cervasio, 37 anni, ha aperto il negozio, ha accompagnato i figli e poi si è scontrata col buco nero della sua memoria. Ero sicura di aver lasciata Gaia felice all'asilo, di averla salutata come sempre con un bacio, e invece era lì, sul seggiolino, sul sedile posteriore. Dormiva. È una giornata calda, più di 30 gradi, Michela parcheggia la sua macchina come sempre in piazza Garibaldi a Vada, in provincia di Livorno, davanti alla pescheria, chiude le portiere, chiude i finestrini col telecomando e va in pescheria. Solo che la figlia è dimenticata appunto lì e dopo 4 ore tornando alla macchina si accorge della piccola. Gaia sta malissimo, è svenuta, respira fatica, troppe ore sotto il sole in quell'abitacolo diventato un forno. Arriva anche il padre, 46 anni, Stefano Nida, chiamano il 118, qui da qui è solo, come dire, cronaca che purtroppo finisce con la morte della bimba. Amnesia dissociativa, viene chiamata così. Si tratta di un'amnesia circoscritta in cui la persona non è in grado di ricordare cos'è accaduto nell'arco di poche ore, una lacuna retrospettiva della memoria, una perdita completa delle nozioni del tempo e del ricordo legata solitamente a eventi traumatici o a un forte stress. Il giorno racconta due pagine, pagina 2 e 3, di questa mamma definita da tutti bravissima, una super mamma. È successo e basta. Questa è la reazione di alcuni nel paese che la definiscono sempre attenta, sempre affettuosa. Un paese sotto shock che difende i genitori. E gli esperti che vengono sentiti, il dibattito. Chi dice le azioni ripetute ci scollegano dalla quotidianità, chi dice lo stress non può spiegare eventi così gravi. Insomma, il dibattito è il solito, il dato terribile di cronaca, purtroppo c'è. Allora, dicevo invece, per cambiare discorso e venire alla questione della RAI, ho lasciato da parte il titolo di libro che oggi titola così in prima pagina: In Rai c'è il Führer, in maniera, come dire, neanche troppo sfumata. Perché? Perché Franco Becchis, vice direttore di Libero, ha scoperto che il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, ha emesso una direttiva che viene pubblicata a pagina 3 di Libero. La direttiva in pratica è questa: vietato rilasciare interviste soprattutto sul tema degli stipendi RAI, che è molto scottante, altrimenti si rischiano sanzioni disciplinari. La circolare ai dipendenti, eccolo qua, chi apre bocca verrà punito, pagina 3 di Libero. Il comunicato interno della direzione: vietato parlare dell'azienda con giornali TV e pure sui social. Per chi sgarra scatteranno sanzioni disciplinari. Tra l'altro, ieri Antonio Campo Dall'Orto è andato insieme a Monica Baggioni, presidente della RAI, alla commissione Vigilanza RAI. Come racconta Marco Mele a pagina 13 del Sole 24 Ore, la RAI verso l'autolimitazione sugli stipendi. La RAI accetta la possibilità di autoregolamentare gli stipendi. In alternativa, la politica è pronta a modificare la legge per imporre il tetto dei 240.000 euro. Il governo, con Antonello Giacomelli, sottosegretario alle comunicazioni, annuncia un rinnovo della concessione a fine ottobre in cui le risorse saranno direttamente collegate agli obiettivi, e conferma la disponibilità del governo, a fronte di un significativo aumento del canone, a liberare a favore dell'intero sistema una parte della pubblicità RAI, come chiedono da tempo gli editori TV privati, in particolare Urbano Cairo, che ha la 7. Certo, la questione dell'autolimitazione, ancora gli stipendi fanno molto discutere. Antonio Campo Dall'Orto ha fatto sapere: il mio stipendio non l'ho contrattato. Ho detto quanto è, mi hanno detto quello che prendeva chi c'era prima di te. E quanto è? 650.000 euro. Va bene. Insomma. Questo racconta Campo Dall'Orto com'è andata. Comunque, insieme a Monica Maggioni, in Commissione Vigilanza, l'impegno è stato preso per arrivare all'autoregolamentazione degli stipendi. Questa è la posizione per quel che riguarda la RAI. Vabbè, il Fatto Quotidiano va un po' a sfruculiare Anna La Rosa, che viene presa in questa anche di gogna mediatica come emblema dello spreco, secondo alcuni giornali. Andrea Giambartolomei racconta a pagina 11 la posizione di Anna La Rosa, caporedattrice di Rai 3, stipendio da 240.000 euro l'anno, che a Repubblica dice aveva detto: in 25 anni di lavoro avevo accumulato più di un anno di ferie, perché Telecamere andava in onda tutto l'anno senza pause estive. E allora in questo scarico di ferie che ha fatto in un anno, le ha dovute scaricare tutte, perché la RAI dice devi smaltire tutte le ferie. Ho fatto un corso di giornalismo scientifico negli Stati Uniti. Ora dice: ho appena finito di smaltire le ferie e sono a disposizione della RAI. Comunica così all'ANSA. Va bene tutto, da una trasmissione per ragazzi a fare il caposede in Veneto o a Nairobi in Kenya. Va bene, così Anna La Rosa. Ieri abbiamo parlato di rifiuti e tra poco ce ne sarà una notizia importante, perché il Messaggero racconta di questa inchiesta sui rifiuti, o meglio di questa, eccola qua, una guerra sui rifiuti, con la nuova inchiesta che riguarda Roma. Cari cittadini di Roma, eccola qua: traffico di immondizia, truffa, associazione a delinquere, la procura indaga sulla discarica di Manlio Cerroni a Rocca Cencia. Manlio Cerroni, che ieri diceva verranno a me, vedrete, a chiedermi di riaprire Malagrotta, oggi trapela sui giornali, sul Messaggero, di questa nuova inchiesta. La capitale non riesce a uscire dall'emergenza rifiuti, l'assessore all'ambiente Muraro e il presidente dell'AMA Fortini sono ai ferri corti. Ora si inserisce la magistratura, racconta il Messaggero a pagina 15. Si inserisce la magistratura con il trito vagliatore di Rocca Cencia che finisce nell'inchiesta. È proprietà del RAS dei rifiuti e padrone di Malagrotta, Manlio Cerroni. E nel mirino degli inquirenti c'è questo trito vagliatore, finito pochi giorni fa al centro di un acceso dibattito. Per l'assessore all'ambiente Muraro, lo stabilimento sarebbe necessario per risolvere la piaga dell'immondizia romana. Per il presidente dell'AMA, sempre più traballante, Fortini, è contrario invece. Lui dice non serve questo impianto. Ora si capisce il motivo: l'impianto in questione è al centro di un'indagine della magistratura, che procedono per truffa ai danni dell'AMA, frode nelle pubbliche forniture, traffico illecito di rifiuti e addirittura associazione a delinquere. Questo sui rifiuti. E a lei. Oh, cari ascoltatori, siamo alla notizia da mani sul volante. No, prima vi voglio dare questa notizia. Questa. Una bella notizia, perché sempre quando mi dite sempre cattive notizie, ve ne do una bella. Così l'ho scovata, l'ho trovata e ve la giro, così come la racconta Claudio Del Frate a pagina 22 del Corriere della Sera. Vi ricordate l'anno scorso quando c'è stata quella moda del Ice Bucket Challenge, quando ci si buttava addosso? Tu l'hai fatta, Peter Bescapè, sì, ti hanno nominato, ci si buttava la secchiata d'acqua in testa. Era una cosa che è stata anche criticata, eccetera. In realtà era nata per trovare fondi per combattere la SLA, malattia degenerativa molto molto grave. Ebbene, a colpi di secchiate d'acqua gelata, racconta il Corriere, doccia dopo doccia, la SLA oggi è un po' meno imbattibile. Ricordate le ironie sul Ice Bucket Challenge, quella catena di Sant'Antonio che impazzava nel 2014, quindi era 2 anni fa, quella in cui VIP di tutto il pianeta, gente comune, accettavano di farsi immortalare mentre si rovesciavano addosso acqua ghiacciata? Bene, il giochino non solo ha messo assieme 100 milioni di euro, 115 milioni di dollari per la precisione, ma ha consentito a 2 progetti di ricerca di aggiungere importanti tasselli sulla conoscenza della SLA. Secondo la rivista Nature Genetics, i risultati di 2 studi hanno individuato altrettanti geni ritenuti responsabili dello sviluppo della malattia. Entrambi i progetti hanno visto la partecipazione di specialisti italiani. Ora la sconfitta della malattia non è dietro l'angolo, dice il professor Mario Sabatelli, ricercatore al Gemelli di Roma, ma quanto riferito da Nature Genetics ci dice alcune cose importanti. La prima è strategica. Anche una trovata all'apparenza strampalata, come tirarsi secchiate d'acqua, alla fine ha funzionato. Ha convinto e ha coinvolto il mondo su un obiettivo comune. E poi c'è l'aspetto scientifico. È stato confermato che la SLA nasce non da fattori ambientali, ma genetici, e in particolare dal malfunzionamento di più geni che ora si stanno studiando. Quindi, come vedete, non tutto è da criticare subito. Ma eccoci qui, da mani sul volante, l'articolo che mi fa pensare della giornata. Succede a Pero, provincia di Milano, Italia. Il comune, come racconta Il Giorno, recluta per 25.000 euro l'anno l'imbustatore, quello che deve preparare le lettere da spedire nell'era digitale, nell'era della tecnologia, nell'era della digitalizzazione, nell'era in cui la carta costa. Assumono l'imbustatore. Ma signora, ma che fa? Ma metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan. rende interessante anche la lettura del... No, questa non la pubblicate. Mannaggia. Vabbè, cara ascoltatrice, succede, grazie comunque, un abbraccio affettuoso, la prossima andrà meglio. Allora, siamo qui a raccontare ovviamente quello che succede in Francia. In Francia il dibattito è molto molto accalorato sul tema della sicurezza. Leggete pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, il resoconto di Carlo Vulpio, uno degli inviati, per capire davvero come le falle, ancora una volta per usare un eufemismo, della sicurezza francese abbiano poi portato a questo attentato. Per la terza volta, al titolo dell'articolo è: così la giustizia francese se li è lasciati sfuggire. Per la terza volta in 18 mesi la Francia ricostruisce i fatti che l'hanno ferita, torna a farsi le stesse domande, a Parigi, al Bataclan, a Nizza, a Promenade des Anglais, a Saint-Étienne-du-Rouvray. Si poteva evitare tutto questo, si poteva fare di più e meglio. L'apparato repressivo dello Stato ha funzionato e ancora le norme in materia di sicurezza e terrorismo sono sufficienti, sono efficaci. Non c'è una risposta assoluta per queste domande, al contrario tutte le risposte non sono immuni da falle. Proprio come le falle di questi fatti tragici. E poi Vulpio racconta. Prendiamo uno degli attentatori, il primo dei due attentatori, Adel Kermishi. A 19 anni, da poco più di un anno, simpatizzava per l'ISIS, aderisce alla causa, vuole andare al fronte in Siria. L'anno scorso ci prova due volte e due volte viene arrestato. Prima a Monaco di Baviera, poi a Ginevra, dove arriva in seguito al respingimento alla frontiera da parte della Turchia. Da Ginevra viene estradato in Francia e rinchiuso in carcere, schedato con la lettera S, il massimo della pericolosità. Lì trascorre 10 mesi, poi il 18 maggio scorso il giudice ne decide la scarcerazione, sia perché i termini di detenzione preventiva stanno per scadere, sia perché Adel mostra di essersi pentito. Queste sono le virgolette. E poi ovviamente... La radicalizzazione che c'era già stata, però, e la decisione di colpire. E ovviamente in Francia ci si chiede: ma che fare adesso? C'è chi parla di carcere preventivo, chi di Guantanamo alla francese, chi dice di no. E attenzione, perché si guarda non solo alla Francia, leggiamo tutti insieme quello che racconta Repubblica, quello che racconta i giornali, che porta anche all'Italia. Per esempio, Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, a pagina 7 di Repubblica, raccontano quella lista di 14 sospetti che porta in Italia. C'è una lista di 14 nomi sui tavoli del nostro antiterrorismo. L'elenco è stato trasmesso dall'intelligence francese ed è quanto fino ad oggi è stato possibile ricostruire della rete di Laouei Boulel, lo stragista di Nizza. Uomini e donne, tunisini e albanesi, che hanno avuto contatti con lui prima del massacro della Promenade des Anglais, e gli inquirenti d'Oltralpe ritengono che potrebbe aver avuto a che fare con l'Italia per alcuni contatti, a cominciare da Shukri Shafrud, l'ultimo a parlare con Boulel al telefono 3 ore prima della mattanza. Per questo arrestato, in passato ha vissuto a Gravina di Puglia, ha lavorato in una masseria di Crispiano, poi si è trasferito a Lecce, infine in Francia. A Napoli l'ex compagna è stata fermata, interrogata e rilasciata. A Bolzano sono stati sentiti i suoi ex inquilini. Poi Enkeleja Zace, donna albanese, accusata insieme al marito di aver procurato a Boulel la pistola che ha usato sulla Promenade. Arrestata un anno fa a Ventimiglia per sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Attraversa più volte l'Italia tra il 2015 e il 2016. Ultimo passaggio il 13 giugno, Bari. Insomma, ci si chiede: c'è dunque un preoccupante filo jihadista che conduce in Albania? Secondo la nostra intelligence è così. Tra l'altro, a proposito di legami con l'Italia, oggi Libero pubblica delle foto. Pierangelo Maurizio lo racconta a pagina 9. Queste foto ritraggono una persona alle recenti manifestazioni a Ventimiglia dei cosiddetti No Borders, cioè questa organizzazione che si batte per la libertà di movimento, l'abbattimento delle frontiere. E in queste foto, cerchiato di rosso nel volto, cioè cerchiato di rosso sulle foto pubblicate da Libero, c'è una persona che, se non è l'attentatore di Nizza, è il suo sosia. Il killer di Nizza sfilava in Italia per i profughi. Il terrorista franco-tunisino era stato identificato l'estate scorsa durante le manifestazioni dei No Borders a Ventimiglia. Si indaga per verificare se con lui ci fossero anche i presunti complici nella strage del tir. Ci sono queste foto in cui veramente questa persona, se non è lui, è il suo fratello gemello, l'attentatore di Nizza, le trovate pubblicate su Libero. In tutto questo, in Italia abbiamo appena espulso un imam, e non è la prima volta, l'imam Mohammed Madad, come abbiamo sentito nel giornale radio, espulso dall'Italia per 15 anni, è 51enne, di origine marocchina, abitava a Carpineti fino a 6 mesi fa, tornava spesso dalla moglie e ai 4 figli, da poco era domiciliato a 90 Vicentina. Martedì sera la questura di Vicenza, al termine di indagini della Digos, gli ha notificato questa espulsione. Aveva chiamato la figlia, tra l'altro, una delle sue bambine, la chiamava Jihad, che vuol dire non solo guerra santa, vuol dire anche sforzo, eccetera. Però, eccolo qua, espulso l'imam estremista, aveva chiamato la figlia Jihad e a lei. In tutto questo c'è il dibattito: è una guerra di religione oppure no? Il Papa ha parlato dal suo punto di vista in maniera chiara: il mondo è in guerra, ma le religioni vogliono la pace. Ha detto il Papa: quando parlo di guerra sul serio, non di guerra di religione. No, c'è guerra di interessi, di soldi, delle risorse della natura, c'è guerra per il dominio dei popoli, questa è la guerra. E qualcuno può pensare sta parlando di guerra di religione? No, dice il Papa, tutte le religioni vogliono la pace, la guerra la vogliono gli altri, capito? E questa è la posizione ovviamente del Papa. C'è anche un altro grande dibattito, oggi Mario Calabresi si spenne in prima pagina di Repubblica, il dibattito sulla pubblicazione di foto, immagini, i video dei terroristi. Ecco, è giusto pubblicare tutto ciò o si fa il loro gioco? Questo è il dibattito in corso a livello internazionale. Mario Calabresi, direttore di Repubblica, nel suo editoriale oggi in prima pagina dal titolo Oscurare l'orrore, dice che da giorni nella redazione di Repubblica discutiamo sull'opportunità di pubblicare le foto dei terroristi e delle stragi. Alcuni di noi hanno espresso disagio per aver messo in prima pagina il ragazzo pakistano che ha colpito 4 turisti cinesi in Baviera sul treno. Abbiamo così deciso di evitare le foto dei giovani terroristi in prima pagina, di non mostrare le vittime e il sangue degli attentati, di non pubblicare sul sito i video più crudi e tutti quelli in cui ci sono morti o feriti. Ieri mattina il direttore di Le Monde ha annunciato che il quotidiano francese non pubblicherà più le fotografie dei terroristi. La televisione All News più seguita in Francia ha deciso di pixelare i volti dei jihadisti. Le radio come France 24, la TV France 24, oppure un'altra radio Europe 1, addirittura hanno deciso di non diffondere neanche i nomi dei terroristi. Il quotidiano La Croix segnerà solo le iniziali dei terroristi. Il tema è cruciale e scottante, scrive Calabresi. Lo ha sottolineato con efficacia Massimo Recalcati pochi giorni fa, dicendo che il gesto del terrorista contagia, diviene un modello, genera emulazione. Allora cosa dobbiamo fare? Silenziare il terrorismo significa sconfiggerlo? Non mi farei questa illusione. Non mostrare vittime e carnefici certamente ci permette di vivere più sereni, ma è corretto per chi ha il dovere di informare? Da anni non esisteva un dibattito così partecipato nelle redazioni. Il precedente storico va cercato negli anni 70, quando ci si divideva sull'opportunità di pubblicare i comunicati delle Brigate Rosse. Una differenza fondamentale tra questa e quella stagione è che di fronte a TV, siti, blog, social network, i giornali hanno perso il monopolio che hanno avuto per lungo tempo. Comunque, scrive Calabresi, responsabilità significa buttare il video diffuso ieri dall'ISIS dei 2 terroristi che giurano fedeltà alla jihad e sottrarsi così alla loro propaganda di morte. Questa è la posizione di Repubblica. Mentre per chiudere il discorso io non lo so, lo leggo così su Libero in prima pagina, mi è impazzito Filippo Facci, impazzito tra virgolette, nel senso che scrive oggi Filippo Facci in prima pagina di Libero uno sfogo durissimo, di odio puro, lo dice lui stesso esordendo così, odio l'Islam. C'è un Filippo Facci che, come dire, supera da destra Oriana Fallaci. Sentite cosa scrive oggi su Libero. Io odio l'Islam, tutti gli Islam, gli islamici e la loro religione più schifosa di tutte le altre. Odio il loro odio che è proibito odiare, le loro moschee squallide, la cultura aniconica e la puzza di piedi, i tappeti pulciosi, il muezzin, i loro veli, i culi sul mio marciapiede, il cibo da schifo, i digiuni, il maiale, l'ipocrisia dell'alcol, le vergini, la loro permalosità, le teocrazie, il taglione, le loro povere donne, quel manualetto militare che è il Corano, anzi quella merda di libro con le sciure, le fatue, queste parole orrende che ci hanno costretto a imparare. Odio l'Islam perché l'odio è democratico esattamente come l'amare. Odio dover precisare che l'antislamismo è legittimo mentre l'islamofobia no, perché è solo paura. E io non ne ho di paura. Insomma, parole intinte nel fiele da parte di Filippo Facci in prima di Libero. Vabbè, andiamo al traffico, come direbbe il nostro Mauro Meazza. Tutto ciò premesso, traffico! Alessandro Milan, il Bono Box dell'informazione. Dovremmo tornare alla rassegna stampa ora. Sì, ci siamo. Ragazzi, scusate, devo interrompere Bono per parlare delle notizie sui giornali. Come facciamo, Peter? Non so, dobbiamo fare RDS, non lo so. Siamo su Radio 24, questa è 24 Mattino. Dai, vi ho voluto regalare questo grande momento di rassegna stampa, uno dei migliori che ricorderete in tutto l'anno. Torniamo alle notizie. Beh, legate intanto alle banche, tutto questo tra l'altro è stato ripreso da Lorenzo Nespoli in diretta sulla mia pagina Facebook, in cui cantavo in un playback maestoso con la voce di Bono. Grazie. Allora, io canto meglio di lui, peraltro. Allora, sul Monte Paschi, il Monte Paschi racconta il Sole 24 Ore. Questa è una lettura interessante perché domani ci sono gli stress test. Ebbene, il Fondo Atlante intende acquistare la sofferenza delle banche italiane, inclusa Monte Paschi, a un prezzo che potrà arrivare fino al 32% del valore originale, per una cifra che potrà salire fino a un massimo di 5 miliardi. Un dossier sul monte che da oggi è già al vaglio del Supervisory Board di Francoforte, dunque della BCE. Il ministro Padoan ieri ha ribadito alla vigilia di stress test, il sistema delle banche è solido, le soluzioni di mercato sono efficaci. Sul Sole 24 Ore viene anticipato da Luca Davi e Marco Ferrando lo schema proprio per l'acquisto dei non performing loans, quindi delle sofferenze delle banche, e tutto ciò alla vigilia degli stress test. Tra l'altro il presidente dell'autorità bancaria europea, dell'Unione Europea, che domani renderà noti questi stress test, viene intervistato da Repubblica. Ferdinando Giuliano parla con Andrea Enria. A pagina 11 dice: gli stress test di domani non sono una sentenza, ma sono una scelta di chiarezza. Gli stress test sono un obbligo legislativo. Abbiamo comunicato al Parlamento europeo che li faremo ogni due anni. L'ultimo esercizio è stato condotto nel 2014, dunque è un obbligo portarli a termine nel 2016. E non è comunque una sentenza, ma una scelta di chiarezza. E a chi fa notare che questo stress test potrebbe essere incompleto sulle banche perché siamo in un momento di grande volatilità sui mercati, risponde il presidente dell'Autorità Bancaria Europea: il nostro test fornisce un contributo fondamentale alla trasparenza. Sul tema della trasparenza ci sono due posizioni. C'è chi dice che se c'è turbolenza bisogna evitare di dare qualsiasi tipo di messaggio, perché si rischia di destabilizzare i mercati. C'è invece chi, come me, è convinto che è proprio nei momenti di volatilità che è importante essere molto trasparenti per aiutare il mercato a distinguere tra banche che possono avere profili di debolezza da banche che invece non hanno problemi. Questa è la posizione del presidente dell'autorità bancaria europea. Domani ci sono gli stress test. Per quel che riguarda invece la politica italiana, c'è da registrare il discorso di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, che nell'incontro tradizionale con la stampa parlamentare è la cerimonia del ventaglio, ha parlato anche del quello che ha definito il demone della violenza, cioè invitato: non cadiamo nell'ansia, anche se ovviamente quello che succede tutto intorno a noi rischia di farci piombare lì. E poi sul referendum ha fatto il richiamo con questa battuta sui Pokémon Go, dicendo: il dibattito sulla data del referendum mi appare un po' come le discussioni surreali, come la caccia ai Pokémon. I Pokémon, tra poco li ritroverete, vedrete che li ritroverete. Tra l'altro il Fatto Quotidiano, li ritroveremo tra poco, vedrete. Tra l'altro il Fatto Quotidiano fa notare, in un'inchiesta di Giorgio Meletti e Marco Palombi, a pagina 6 e 7, che l'Italia, questa almeno è l'accusa del Fatto, è senza governo, un'indagine sulla scomparsa dell'attività di governo, nel senso che c'è uno stallo e ormai un ritornello su tutte le tematiche, che è questo: se ne parla dopo il referendum, dice il Fatto Quotidiano. Questa è la frase più gettonata in tutti i ministeri, grandi o piccoli. Sono mesi che dicasteri anche importanti come lo sviluppo non producono leggi. I più fortunati, come Marianna Madia, ammette un funzionario anonimo, hanno la delega da applicare, ma per il resto è tutto bloccato fino al referendum. E il Fatto Quotidiano fa questa inchiesta di: è tutto paralizzato, l'attività di governo non c'è più. Va bene, guardiamo un po' all'estero, guardiamo all'appello shock di Donald Trump nei giorni in cui si conclude la convention democratica che porta la candidatura di Hillary Clinton. Trump che cosa ha fatto? Beh, il tema è quello delle mail, migliaia di mail, 20.000 mail dell'organizzazione del Partito Democratico che sono state rubate sicuramente, e dietro a ciò ci sarebbe la Russia, così accusa Barack Obama. La Russia avrebbe rubato queste 20.000 mail dell'organizzazione del Partito Democratico. E che cosa ha detto Trump? Ha detto questo, in pratica: Russia, se mi ascolti, trova anche le 33.000 mail della Clinton sparite e pubblicale, che i mezzi di informazione te ne saranno grati. E insomma, l'appello shock di Trump alla Russia, altro che patriottismo, si appella alla Russia e a Putin a dire: rubate le mail a Hillary e pubblicatele. Insomma, il clima è questo negli Stati Uniti alla campagna per le presidenziali. Tornando in Italia, su tutti i giornali troverete ampio spazio a quello che è stato definito da alcuni un furto, comunque una decisione. Certo, a Torino non saranno molto contenti, come fa subito notare il sindaco di Torino Chiara Appendino in un'intervista sulla Stampa. Succede che la decisione degli editori è uno strappo abbastanza clamoroso per il mondo della cultura. Il Salone del Libro di Torino di fatto trasloca a Milano. L'Associazione degli Editori ha approvato a maggioranza la nascita di una nuova società con la Fiera Milano, una nuova manifestazione. E il tradizionale Salone del Libro di fatto viene, adesso so che è brutto dire, scippato a Torino e portato a Milano. E Chiara Appendino, intervistata dalla Stampa, sindaco di Torino, dice: scorrettezza da parte di Motta, che è presidente dell'Associazione Italiana Editori. L'edizione del Salone del Libro si farà nel 2017. Lavoreremo con gli editori che non la pensano come il dottor Motta e si renderanno responsabili. Insomma, c'è questa battaglia sul Salone del Libro tra Torino e Milano. Forse il titolo più efficace in questo è Il Fatto Quotidiano con Silvia Truzzi, Un salone a Milano, lo sgabuzzino a Torino. Come dire, rimane un Salone del Libro a Torino, ma si pensa dimezzato. Siamo alla Carta Costa, eccolo qua, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Vedete che li ritroviamo i Pokémon. Dopo la parola data al Presidente della Repubblica, dopo il discorso e la citazione dei Pokémon da parte di Mattarella, ebbene sì, Repubblica fa mezza pagina per dire che sotto il Quirinale, sulla piazza, sono stati trovati dei Pokémon, in effetti, come il mostro Starmi, forma stella, colore viola, 793 punti lotta, i Pokémon al Quirinale. Ma chi se ne frega!